Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Quasi puntualissimi, Maurizio, hai visto? Sì, quasi, quasi. Alla Svizzera. 40 secondi dopo. Sì, alla Svizzera. Buonasera a tutti, buonasera da Blue Radio Veneto, buonasera soprattutto da Agostino Spolaore e dal mio fedele, inseparabile compagno. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Ben ritrovato. Ci siamo visti quando? Io te... Pochi giorni fa. Sì, martedì. Ormai... Se fossi una bella donna, te lo dico sempre, invece mi devo accontentare di vedere sempre rock, a te. Amo il rock, il blues, di tutto. La musica. Stasera sei nella Fossa dei Leoni ancora? Certamente, certo. È bello essere nella Fossa dei Leoni, è la più bella cosa che esiste. Ci mancherebbe. Allora, questa sera, chi abbiamo stasera? Stasera abbiamo musica di classe, raffinata, di qualità, con una cara amica che si è venuta a trovare da Pavia. E si chiama Deborah Lombardo. Ciao Deborah. Ciao, buonasera a tutti. Non sei venuta da sola? No, ho l'autista. Che sarebbe? Il mio accompagnatore musicale Mario Zara. L'Ambrogio. Non hai i cioccolatini però, hai portato ce li hai in macchina. Prima di cominciare questa carrellata con la musica di questo soprano che ci raggiunge da Pavia, vi voglio dire i nostri dati, ovviamente, insomma, le nostre frequenze 38.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza, poi ancora il nostro numero telefonico in studio, lo 049 875 6423, e le nostre pagine su Facebook, cioè semplicemente Blue Radio Veneto, l'altra è Blue Radio Veneto Rock Wave, gestita da Alberto Prisco, che salutiamo, probabilmente verrà, magari passerà questa sera a darci un salutino. Non viene? No. Non ha detto di no, va bene. Ha detto di no. Ha detto che forse passava, va bene. Vedremo. Mai mettere il limite alla provvidenza, certo. Dicono, vero? Ecco, bene. E poi ancora, se ci state ascoltando in streaming in questo preciso istante, vuol dire che siete collegati nel nostro sito, cioè www.blueradioveneto.it, lì ci potete ascoltare in streaming 24 ore su 24, assolutamente in diretta, ogni qualvolta voi lo desiderate fare, e ovviamente da tutto il mondo, quindi in qualsiasi posto. So per certo che c'è una carissima amica di questa emittente che ci sta ascoltando dal Brasile, e la salutiamo caramente. È amica da pochi giorni, Deborah, insomma, da pochissimo, non è molto, però ha detto che ci segue sempre, quindi differenza di fuso orario, ovviamente 6 ore, ma comunque ci sta ascoltando. Bene. Quindi magari se c'è una canzone, magari gliela puoi anche dedicare. Perché volentieri. No? Va bene, credo di aver detto tutto. Io credo a questo punto di lasciare lo spazio veramente a quella che è il mondo, quella che è la musica, insomma, di Deborah Lombardo e questo suo ultimo disco, che non è recentissimo, è uscito qualche mese fa, se non sbaglio. A gennaio, e che comunque ce lo presenterà questa sera. Maurizio. Sì, cara Deborah, parti dalla lirica, tu sei soprano lirico leggero, ma esatto. Poi hai trovato sulla via di Damasco, hai trovato il jazz però. Oddio, diciamo che è stata una bella lotta. Una bella lotta. Il jazz, sì. Forse è arrivato prima il jazz, anche se non lo sapevo. C'era qualche cosa che mi attirava. Poi ho iniziato a studiare, ovviamente. Ho iniziato con la lirica. Con la lirica, certo. Che la lirica è importante perché si sente nel disco, qualche momento si sente la tua capacità vocale, che nasce anche da quello. Beh, la lirica, diciamo che è la tecnica per eccellenza, cioè l'uso della voce al 100%, quindi impari a usare tutta la voce, poi quanta ne vuoi usare sarà a discrezione del genere che fai. È chiaro. Sì, mi ha aiutato tanto, devo dire, poi è una mia grande passione. Soprano lirico leggero. Lirico leggero, sì, sì. Che sì, sta sì. Per? Dunque, facciamo una lezione di... Sì, certo che sì, noi siamo ignoranti, quindi è giusto. Sì. No, diciamo che le categorie nelle donne sono 3, soprano, mezzo soprano e contralto. Però ogni categoria ha delle sottocategorie, chiamiamole così, a seconda del colore della voce, dello stile, della timbrica. Quindi il soprano si può dividere dal soprano spinto, lirico spinto, voci più scure che sembrano quasi dei mezzo soprani, lirico leggero, che è la voce più classica femminile, poi c'è il lirico leggero, fino al coloritura. Coloritura, per intenderci, è la Regina della Notte di Mozart. Ah, ho capito. Diciamo, bene. A seconda del colore della voce. Tu insegni anche? Io insegno, sì, tecnica vocale e canto nei vari stili, sì. Una cosa interessante, caro Agostino, che io non sapevo, che ho scovato nel 1986, un po' di anni fa, Deborah è approdata non è che sia approdata a Roma, però lei era a Rimini, ha inciso delle cose per la mitica RCA italiana, quella dove ha inciso Morricone, tutti i cantautori, eccetera. È così, Deborah? Sì, anche se come ti dicevo prima non so che fine abbiano fatto, no, queste... Non sai che, però c'è stato. Sai che non sei la prima che mi dice queste cose, perché... Sì, beh, all'epoca si usava molto prestare la voce, certo. Quindi magari non si ricordano neanche di te. Tu andavi in uno studio, cantavi delle cose, prestavi la voce, mm-hmm. Ti pagavano a fine turno, certo. E poi non sapevi che fine facevano questi... I cosiddetti turnisti. Un turnista, esatto. Mario lo sa sicuramente, era Luigi Tenco. Luigi Tenco ha fatto il turnista per RCA. Luigi Tenco ha scritto Yeah, dei Mal dei Privities, l'ha scritto lui. Cioè faceva il turnista, sì. Anche Ennio Morricone era un turnista, praticamente dirigeva le orchestre dei cantanti della RCA. Era così la storia. Eh beh, un po' una gavetta, diciamo. Una gavetta, poi c'è chi ha avuto fortuna e ha trovato un aggancio e chi invece è andato per un'altra strada. Esatto. Tu hai mollato la RCA poi, insomma. Ma guarda, alla fine era un contatto un po' esterno, quindi non è che facessi parte dell'RCA. Io ho lavorato con delle persone, ho registrato delle cose che poi sarebbero andate all'RCA, ma non so se poi alla fine ci sono andate veramente. Anche per la Baby Records. Sì, hai fatto delle cose anche dance. Sì, sì, per la Baby Records, per la Sony forse. Sì. Poi se ci siano arrivate e siano state usate, questo non lo so. Io so che finito il mio turno tornavo a casa. All'epoca ero anche giovane, non ci credevo molto, insomma. E poi un'altra cosa importante: tu insegni la prestigiosa Miles School of Music di Piacenza, una delle più grandi, più importanti scuole di jazz italiane. Sì, una collaborazione di 3 anni con il signor Gianni Azzali, che voglio salutare. Certo. Un grande sassofonista, un grande direttore di scuola, è veramente una bella scuola, devo dire, seria. E se magari ci sta ascoltando tutta la scuola. Speriamo. Che ci ascolti. E nel tuo percorso hai trovato questo grande musicista, questo grande arrangiatore, Mario Zara. Grazie anche a Mario, perché... cioè, adesso Mario Zara si avvicina al microfono. Eccoci. Ecco. Battista. C'è anche lui. Certo, c'è anche lui. Tu hai fatto tante cose, hai suonato con Claudio Fasoli, per esempio, sì. Che è uno dei più grandi jazzisti italiani. Sì, fa parte della storia del jazz italiano. È un progetto di Claudio Fasoli. Un progetto, sì, era l'Emerald Quartet. Esattamente. Con il quale abbiamo registrato, se non sbaglio, 3 dischi. Uh-huh. Abbiamo suonato anche qua al Festival Jazz, non mi ricordo più quando, 3 o 4 anni fa, e con... ospite Paolo Fresu. Certo, un altro mito. Esattamente. E niente, è stata una bellissima, una delle più, se non la più bella esperienza che ho fatto nel mondo della musica, perché la musica di Claudio era veramente quello che volevo fare io nella musica. Cioè, una libertà organizzata, diciamo. Però sì. C'era molta libertà di che ognuno poteva veramente dire la sua. Mm. Non c'erano confini, anche pur essendo nei confini di una struttura armonico-melodica. Ecco, cosa vuol dire arrangiare, Mario, per te? L'arrangiamento. Cosa dà quando crei, colori un pezzo per la voce di Deborah, praticamente? Ma generalmente le cose migliori vengono per caso. Nel senso che i pezzi migliori ascolto un riff di batteria... Mm. Che non c'entra niente, e in quel momento ho l'intuizione su quale pezzo posso appiccicarlo. Ah, vedi. O se no sto suonando, come nel caso di un pezzo che poi ascolteremo dopo, sto suonando così per giocare, e mi vengono 4 accordi a fila, e nello stesso tempo mi viene in mente una canzone sulla quale potrei lavorare. Mm. Da lì poi costruisco tutto il resto. E lì sono, a mio parere, le cose migliori, perché vengono da intuizioni. Mentre il lavoro proprio mirato, a volte, cioè devi arrangiare questo pezzo piuttosto che l'altro, sì, viene, ma non è mai la botta di intuizione che può essere, che arrivare da un percorso del genere, almeno a mio avviso. No? Certo. E io direi a questo punto di far sentire chi è. Se apriamo la finestra. Esatto. Apriamo la finestra, anche perché le favole più belle sono già state scritte e a noi non resta altro che viverle. Giusto, Deborah? Giusto. In parole tue queste. Esatto. Nel tuo sito. Allora, apriamo con anche la canzone che apre il disco. Sì, sì. Come mai questa scelta su Harry Mancini per l'apertura? È sempre lui. È colpa di Mario. Poi è un pezzo ultra famoso questo. Insomma. Sì, ma è stato stranissimo, perché io non pensavo proprio a questo pezzo. E un giorno mi disse, ti faccio sentire un arrangiamento di un pezzo che ho fatto. Ed era bello, era strano, era completamente fuori dagli schemi. Non mi ricordo se lui mi ha proposto di cantarlo. Io gli ho detto: posso cantarlo? Ah, ecco. E alla fine abbiamo iniziato a provarlo e ci è piaciuto. Ascoltiamo, poi magari ne riparliamo. Moon River. Moon River and me. Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. In questa splendida atmosfera ti devo già portare i saluti. Deborah, c'è una, come ti dicevo, il Brasile, la Dilma, Dilma Merlin, che dice: ciao Agostino, vabbè, Deborah meravigliosa, è un'artista completa. Wow, grazie. Internazionale. Internazionale dal Brasile. Poi so che c'è la canzone, magari, sì, The Boy from Ipanema, magari la possiamo anche dedicare. Non in portoghese però. Non la canti in portoghese. Magari la facciamo cantare da lei, magari. Vedi, da prendere da collezione da Tiffany e rifare Moon River è una cosa interessante. Cari ascoltatori, io mentre il pezzo andava ho interrogato Mario, perché è la fonte di questo pezzo, l'idea di questo pezzo, questo arrangiamento un po' complesso. Una chitarra intanto alla Steve Vai, che bello, una bella chitarra rockettara. Proprio perché non questa chitarra rockettara? Per il semplice fatto che sentivo e volevo che in quel punto succedesse quella cosa. Che era il punto giusto, secondo me. Sì. Come giustamente tu hai detto, rompeva lo schema. Esattamente. Rompeva lo schema. Anche la batteria è un po' strana, un po' atipica in alcuni momenti. Poi è jazz, ma non propriamente jazz. No, dunque, la batteria arriva da un amico, un batterista, che un giorno ha postato su Facebook il video di un batterista che si chiama Chris Dave, che stava suonando hip hop e inframmezzava questo hip hop a del jungle o quella roba lì che non so come si chiama. Sì, insomma, andava certi schemi li rompeva anche lui. Esattamente. Esattamente. E lì non mi ricordo perché mi è venuto in mente Moon River, che è la cosa più distante che possa esserci da questa ritmica. assolutamente. Ma forse ho messo su questa batteria e poi ho provato a suonare delle cose al pianoforte. Il primo motivo che mi è venuto tra le mani era questo, è stato questo, e ho detto: però se può fare, certo che si può fare. Si può fare bene, perché e l'amo fatto. Comunque, se Nothing Call l'ha suonata in una certa maniera, l'ha cantata in una certa maniera. Sì. Voi l'avete cantata alla vostra maniera. Esatto. La musica è bella anche per questo, giusto, no? Certamente. Ha una visione diversa, un'idea diversa. Moon River doveva essere l'idea per Deborah. Esattamente. Chiaramente. Beh, insomma, è andata proprio così. Non era proprio per me capitato. Però sì, è capitato. Lui aveva fatto l'arrangiamento, ti è piaciuto? Sì, mi ha detto, ti faccio sentire un pezzo che ho arrangiato, vediamo se lo riconosci. Io lì per lì non l'avevo riconosciuto. E poi non ricordo se lui mi ha detto prova a cantarla o io ho detto voglio cantarla alla fine. E poi hai riconosciuto subito. Sì, infatti ho detto bello, mi piace questa cosa, perché aveva proprio un'idea di strano. Sì, esattamente. Poi oltretutto, cioè, certi pezzi nel genere che vogliamo fare, se non li fai in modo originale non ha senso farli, perché insomma i grandi pezzi, quelli così famosi, così scontati, o gli dai un altro vestito oppure non hanno poca presa. Certo, sono d'accordo. Li hanno già fatti, insomma. Sì, chiaramente sì. Però è andata così. È andata bene. E poi l'apertura del disco è già un rischio, sì. L'apertura del disco con un pezzo simile, vero Mario? Sì. Cosa dici? È un rischio, sì. L'abbiamo... Avete calcolato? Ma neanche tanto. Neanche tanto. La spacca. Volevamo dare anche un'impronta diversa, perché quando uno mette su un CD ascolta il primo pezzo, le prime note. Assolutamente. Quindi volevamo incuriosire con un qualche cosa di forte. Anche la tonalità, devo dire, è una bella tonalità, sì, si può dire da trance. Io ho sentito il pezzo, io e la redazione abbiamo sentito il pezzo, e chiaramente il primo, volutamente, ci si ferma un momento sul primo, Moon River sì, però... Di veduta, sì, è corretta, sì. Possiamo dire questo? Sì, assolutamente. Poi anche vocalmente è stato anche difficile, perché mi ha chiesto di fare delle cose che io non ero abituata a fare, cantare così in basso, con questi toni così quasi parlati, quasi recitati. È stata una bella sfida, insomma. Abituata al lirismo, insomma. Beh, ma tutto il disco è così poi, alla fine. Sì, poi abbiamo lavorato anche su quello, perché anche in studio ci sono stati dei belli aneddoti su come mettere la voce, su come lasciarsi anche andare. Diceva, no, non cantare a tempo, canta fuori tempo, canta fuori. Ah, poi si arrangiava lui, insomma. No, proprio diceva, canta libera, non stare a pensare troppo a quello che hai scritto... ho dovuto praticamente quasi riscrivere i miei pezzi. In alcuni pezzi veramente ho dovuto reinventarli, però è stato bello perché comunque ho scoperto delle cose che si possono fare. C'è sempre qualcosa da scoprire, assolutamente, giusto? Però comunque, tornando al discorso di Moon River, è strano aprire, visto che questo disco tra l'altro è un po' tuo, cioè tuo, vostro, come testi e musica, sì. E un po' sono degli standard, sì. Mi sarebbe venuto, io personalmente non sono un cantante né un artista, però a me sinceramente mi sarebbe venuta l'idea di fare una canzone mia per prima, giusto per capire chi sono, cioè quella è il mio mondo, la mia musica, mi sbaglio? Sì, ma sai, ci sono vari punti di vista, certo, anche certo. Perché allora è difficile capire poi come pensa la gente. In genere nel jazz, quando comprano un disco di tutti inediti, rimangono un po' così, E invece con le cover guardano, c'è questa cover, bella, magari ascolto come l'ha fatta. Quindi noi abbiamo fatto una scelta, certo, di un po' e un po'. Anche certo. O sei un nome veramente una scelta più di marketing più che altro. Immagino. Vabbè, insomma, da quest'album che si chiama Fairy Tales torniamo indietro, sì, mi piaceva così raccontare un po' il percorso mio di quando mi sono decisa a tornare al jazz, ma a dedicarmici completamente, anche se non mi definisco proprio una jazzista, io sono una che canta jazz, mi piace, e Mario è stata una scuola per me, e lo è tutt'oggi, perché io sono sempre a scuola con lui. Devo dire che dopo ogni serata sono sulle ginocchia, perché poi mi ricordo una frase che mi disse, se canti con quelli che non sono bravi, sarai sempre tu la più brava, e quindi... Quando mi porta con i musicisti che mi propone lui, io sono sempre abbastanza sotto esame, però mi piace perché imparo tanto, veramente, sì. E, ci siamo conosciuti nel 2005. Quanta pazienza, Mario? Troppo. Le donne. No. Diciamo che sono tornata appunto al jazz con quello che poi è il mio editore, Stefano Bertolotti della Ultrasound, che... era mio collega anche alla scuola dove insegnavo, lui è un batterista, un insegnante di batteria, e mi disse, dai, suoniamo insieme. E il primo quartetto aveva un chitarrista, un contrabbassista e batterista e la voce, e dovevamo fare un demo, facciamo un demo, e di standard, ovviamente non avevo ancora pezzi miei, e il mio desiderio era anche di avere due pezzi a cui tenevo tanto fin da quando ero piccola, chiamiamo, diciamo così. Invece del demo mi disse, facciamo un disco. Perfetto. Un disco, sei tu l'editore, paghi tu. Sì, perché lo studio è mio, facciamo un disco. Allora gli chiesi, mi piacerebbe fare due pezzi piano e voce. E disse, va bene, ce l'ho io il pianista per te. E mi fa conoscere Mario Zara. E da allora è rimasto sconvolto. Si è più liberato di me. No, abbiamo cominciato a lavorare su questi due pezzi. E niente, poi invece abbiamo continuato anche a chiamarci a vicenda per fare delle serate. Ma cosa avete fatto assieme tecnicamente? Cioè avete inciso tre momenti, tre progetti con Mario? Abbiamo prima fatto questa esperienza dove lui ha fatto questi due pezzi piano e voce. Poi abbiamo cominciato a fare qualche serata, io ho cominciato a scrivere qualche melodia e lui le ascoltava e quando le sentiva, che parere ti dava, così, immediatamente? Quando che parere mi davi? Non ti ricordo. No, diciamo che alcune cose... No, parere nel senso musicale, nel senso di come poteva arrangiare lui, l'idea di arrangiarli. Ma se l'idea era buona, mi diceva sì, ci si può lavorare, cominciavamo a vedere cosa poter fare di quel pezzo. Se il pezzo non girava, mi diceva magari rimettici ancora le mani, insomma. Quando la melodia, l'idea gli piaceva, bene, questa idea è bella, la sviluppiamo. Quindi, come dico sempre, io lo scrivevo con un dito, lui ci metteva le altre 10, insomma. Le altre no. Bene, ho capito, benissimo. Allora, cosa ci ascoltiamo? Cosa ci sentiamo? Poi magari torniamo a parlare. Ma, primo disco, sì, uno standard, che è stato appunto anche il primo standard su cui io ho cominciato a lavorare sull'improvvisazione insieme a lui. Lullaby of Birdland. Oh, That's what I always hear when you sigh. Never in my world land could that be where to reveal in a free hour faith. Have you heard the hearse too turtle dust, Bill and Coo, when they laugh? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. There's a weepy all willow, he really know how to cry. That's our cry in my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, a lullaby of birdland whisper low, kiss me sweet and we go flying high in birdland, high in the sky, up above, all because we're in below, kiss me sweet, and we go flying high in birdland, high in the sky, up above, we're in love. Io fondamentalmente sono un rocchettaro, però quando sento queste cose mi entusiasmano, resto con la bocca aperta e ho sempre pensato, come fa una cantante come Deborah in questo momento a riuscire ad alzarsi così ed abbassarsi contemporaneamente senza rompere l'armonia che Mario le costruisce attorno. Parli di estensione? Esattamente, parlo di estensione. E torniamo alla tecnica vocale. Esattamente. Che è il mio pane quotidiano. appunto, è il tuo pane quotidiano. Sì, sì, sì. È proprio l'abitudine, quindi l'esercizio. Si vede che in scioltezza non c'è nessuna difficoltà da parte tua. Assoluta. Sì, non c'è più una visione dell'altezza delle note, proprio perché proprio libertà della voce data da questo training, da questo studio, appunto, dalla lirica, usato poi comunque nel moderno. Quindi si può usare la voce in qualsiasi stile, l'importante è prima liberarla, cioè liberarla tutta, poi ne usi quella che vuoi. Quindi ritorniamo sempre al discorso di prima, lo studio unico, universale. Lo studio serve sempre, sì, sì. Continuamente. Sì, sì, sì. Sì, perché è un'agilità, è come uno sportivo, insomma. Io faccio l'esempio con le ballerine, no? Sì. Se vuoi arrivare a fare la spaccata, prima devi elasticizzare le gambe, se no ci vogliono anni di studio, non si può imparare in un mese, in due mesi, in tre mesi. Io sono 25 anni che studio e sto ancora comunque studiando, quindi... C'hai sempre qualcosa da imparare. Sempre, sì, sì. La voce è un muscolo, come ogni altro muscolo va tenuto in allenamento, e poi c'è la parte ovviamente anche, insomma, come diceva il mio maestro, il cantante prima deve avere il cervello, poi la voce testa. Si costruisce. Quanto ci dedichi al giorno alla tecnica vocale? Cosa fai, i gargarismi, che ne so? No, diciamo che oggi insegnando quasi 12 ore al giorno, quindi praticamente già ti basta ore, quello. Sì, mi basta quello, non ho bisogno di... La mattina ti alzi e mentre... E faccio lezione ai ragazzi, quindi comunque la mia voce è sempre in movimento. Ma ti viene mai di cantare anche fuori così, quando sei da sola, che ne so? No. Ho poco tempo, diciamo. Certo, immagino. Meno stacchi la spina, altre proprio. Cose, sì. Poi la voce ha bisogno anche di riposo, sennò... E l'arrangiamento che ha fatto Mario è modulato sull'idea della tua voce, della tua interpretazione, Mario, oppure... L'arrangiamento era già costruito e Deborah ci ha messo la voce. No, era abbastanza preconfezionato questo, nel senso che risponde a dei canoni fedelmente all'originale. Allo standard originale. Standard originale, sì, sì. Ci sono ricordiamo l'autore dello standard originale, ricordi? Shearing. George Shearing, sì. Beh, gli standard, appunto, quando si cantano in serata, quelli di tradizione, si cerca di rispettare un po' i ritmi, no? Lo swing. Sì, dipende molto anche dal pubblico che hai davanti. Sì. Perché è un reato toccare uno standard. Sì, sì. In alcuni momenti, vero? Con alcuni pubblici, sì. Quando c'è il pubblico un po' anzianotto, insomma, se glielo fai come l'ha sempre sentita, è meglio. No, non fa come Bob Dylan, che quando fa i suoi standard, so, Blowing the Wind o qualche altra cosa, li completamente li distrugge. Cioè, non riesci a capire in alcuni concerti sì, non riesci a capire neppure la melodia di Blowing the Wind. Completamente la cambia totalmente. Non arrivate a questo voi sicuramente. Sì, arrivate a questo. Sì. Volendo sì. Ah, volendo sì, perfetto. Bisogna vedere che pubblico ha davanti, come ha detto Mario. Sì. Ma però comunque ci mettete qualcosa di vostro, insomma, ovviamente. Beh, sì, diciamo che allora, lo standard rimane quello nel ritmo, però ogni volta è diverso, non lo suoniamo mai nello stesso modo, anche se... Beh, ma il jazz è così. Sì, jazz, non ti ricordi mai quello che hai fatto. Improvvisazione, dicono, no? Sì, fate le prove, perché facciamo le prove? Se tanto poi in serata sarà tutto diverso. Beh, però ci sta anche quello. Sì, no, assolutamente. Certo. Allora, con Mario hai fatto un altro progetto precedente a questo, si chiamava? Through the Rain. Esattamente. Sì. Stessa impostazione come questo o leggermente diverso? No, diverso, nel senso. Ma ne parliamo. Ah, parliamo dopo? Sì, perché c'è un'altra canzone ancora. Sì, okay. Vero, abbiamo sì. Preparato una scaletta. Perfetto. Diciamo che l'Alabai era è uno standard, è un classico che facciamo in serata. Mentre appunto il pezzo piano e voce, che comunque c'era nel CD, anche se col quartetto. E invece il piano e voce che ho voluto proprio specificatamente, e potrei anche dedicarlo alla nostra amica brasiliana perché è un autore brasiliano, Ivan Lins, che io stimo molto e mi piace tantissimo la sua musica. Lui è molto jazz, perché ogni 3 battute cambia tonalità, accordi, è veramente bello. Ovviamente io lo canto in inglese perché il portoghese, cioè, non lo sai, lasciamo perdere. Vabbè, puoi sempre ripararlo in un'altra vita sicuramente. Ed è un pezzo appunto che mi è sempre piaciuto tantissimo e ho chiesto appunto a Mario di fare un arrangiamento di questo brano. Con quali punti, Mario, con quali criteri hai arrangiato un pezzo di questo musicista brasiliano? Ma a livello armonico è già abbastanza complesso di suo per mettergli le mani. Quando una roba è già complessa, bella che suona così, è un peccato toccarla. Sì, almeno questo proprio non me la sono sentita. Forse l'unica cosa che ha di diverso dall'originale è il fatto che è stato fatto piano e voce, diciamo, una versione un po' diversa dall'originale, ma per il resto mantieni i crismi dell'originalità. Sì, perché è bello così sto pezzo. Sì, perfetto. Gli fai del male. Certo. Va bene. Una grande versione anche quella di Tania Maria, che ha fatto una bellissima versione di questo pezzo, che in portoghese si chiama Non lo so il portoghese, però forse la nostra ascoltatrice lo sa sicuramente. Io lo pronuncerei malissimo, come Cardenovo, mi pare. Non so se la mia Ci abbiamo provato, non ti preoccupare, abbiamo capito. Sembra più veneto, però. Poco. Poi io mi sono forse rifatta di più alla versione americana di Patty Austin, perché l'inglese è un'altra grande amica di Maurizio. Sì, lui ha tutti i suoi idoli americani. I miti, poi sono. Va bene, la canzone comunque si chiama The Island. Around me, lose yourself. on a little island, not a soul can see us. Show me how to love you. Teach me how to please you. Sussurrata fino alla fine, sentito Maurizio? Io ci provo, ci provo. Dice Começar de novo. Começar de novo. Sai anche il portoghese adesso. Me l'hanno detto qui. Bellissima interpretazione, dicono, anche se cantate in inglese. Grazie, grazie, grazie. È un pezzo di grande pathos, possiamo dire, sì. Questo, Deborah. Sì, è un pezzo molto forte, il contenuto del testo è bello forte, quindi poi appunto in Annisa queste armonie, sì, ti ribollono, sì, proprio le... prendono immediatamente, sì, sì, sì. Bel giro armonico che ti ha fatto Mario, sì, in, sì, questo, sì, momento, sì. Live 21 e 45, perdono, più live, l'hai seguito, seguivi le note del piano, seguivi... Sì, deve esserci un grande feeling, esattamente. Sì, sì, sì, bisogna conoscersi proprio profondamente, cioè, anche perché appunto l'ascolto degli stimoli che ci si dà a vicenda è importante in questo, certo, genere, certo. Se no è un eseguire. Fra le tante cose che avete fatto voi, prima parlo con te, poi parlo con Mario, tu anche canti, cioè insegni lo stile del canto musical. Sì, diciamo che vabbè, principalmente tecnica vocale, quindi quella... Anche del musical però. Sì. Che però... differenza c'è tra la tecnica vocale del musical e la tecnica vocale jazz? Allora, la tecnica vocale è tecnica vocale sempre. Sempre, non c'è la differenza. Questa è la mia dottrina, il mio credo. Tu li ama molto il musical, perché ho fatto questa, sì, domanda. Poi lo stile invece è un'altra cosa. Nel jazz lo stile è più recitato, il cantante non deve, diciamo, far suonare la voce, ma deve interpretare un ruolo, quindi diciamo che è più un dire, un mettere i panni a livello di pathos, più che curare, diciamo, quello che è la liricità del pezzo. Però la tecnica vocale è quel training, quello stretching vocale che serve. Qualcuno pensa di voler insegnare la tecnica cosiddetta del belting per il musical, tecnica pratica, anzi non tecnica, una pratica vocale devastante per la voce, quindi. E poi sull'italiano è terribile, cioè abbiamo delle vocali che non ci stanno proprio, è più una pratica americana, ho però capito. È molto devastante per la voce. Io posso dire che lavorando sulla tecnica vocale si può raggiungere comunque un belting naturale, come abbiamo i nostri belter internazionali. Barbara Streisand era una, sì, belter naturale, quindi non aveva bisogno di spaccarsi la voce. Scusa, hai detto poco. E anche Freddie Mercury, se, certo, vogliamo dire, usavano comunque la completezza della voce in qualsiasi stile. Mario ha suonato anche a Dubria Jazz, vero Mario? Sì, nel 2011. Com'è stata l'esperienza? Cioè, poco tempo fa, circa 2 anni fa. Sì, di solito non mi emoziona anche in teatri, robe, quando mi capitano le robe insomma un po' più grandi. Grandi. Lì invece mi sono... Perché ti sei emozionato? Non lo so. Palco, la situazione, il fatto che era la prima volta che ero lì. E peraltro ho suonato lì... Ho fatto 2 concerti, uno con una formazione, con presentavamo il secondo disco di Mattia Cigallini, che è questo astro nascente del jazz italiano, e poi dopo presentavamo l'ultimo disco con Claudio Fasoli, quindi certo. Ho fatto la doppia Umbria Jazz. Beh, una cosa meravigliosa. Non è poco. Già farne una è già buona. Farne una è buona, la doppia è... E poi hai suonato in un progetto... Pardon, io, mi è caduto gli occhiali, in un progetto, ho letto, con Tullio De Piscopo, è vero il tuo discorso? Sì, sempre in collaborazione con Mattia Cigallini, ho fatto prima qualche data in sostituzione di Andrea Pozza. Che è venuta qua. Che è venuto qua. Salutiamo, ciao Andrea. E poi abbiamo fatto qualche data proprio con un progetto nostro di Tullio e di Mattia insieme. E niente, poi anche quell'esperienza è finita. Comunque è stata una bella esperienza. Noi conosciamo Tullio De Piscopo come musicista pop. Cosa vuol dire musicista jazz o presunto tale? Tu chiaramente hai suonato assieme, hai un'altra visione, un'altra modo di interpretare quello. Beh, che fa Tullio diciamo De Piscopo. Diciamo che De Piscopo è uno dei pochi batteristi, almeno che io conosco, che è in grado di suonare bene sia la tradizione del jazz sia che il pop, e lo dimostrano le sue collaborazioni con Pino Daniele, certo. Ancora adesso, e le sue collaborazioni con i musicisti di jazz di tutto il mondo, certo, veramente un grande. Bene, ok. Beh, è anche un grande personaggio, anche comunque, che sviolinata diceva. No, io ho fatto solo una domanda, sì, che volevo sapere. Io voglio sapere sempre tutto che leggo, quindi è bello, interessante. Uno suona con certe persone che si conosce. Lui è stato a Dubria Jazz, il tempio in assoluto, non solo del jazz italiano, è anche del jazz europeo, penso mondiale. Penso sia uno dei concorsi, degli eventi più importanti. Più che altro è il jazz, e basta. Esatto. Cosa dici? Sì, sì, sì, sì. Assolutamente. Anche se adesso insomma, si sta scaduto. Un po' contaminando un attimino con qualche cosa un po' più pop, tra virgolette. Comunque, ci vuole. Comunque no. L'aria è sempre jazz, quella che si respira dal mattino alla sera. Ci sono concerti per le strade, nei teatri, ad ogni ora c'è un concerto di jazz, soul. Non è Montreux, ma va bene lo stesso. Ma anche Montreux si sta un po' inciampando. Sì, anche quello, dici. Abbiamo sentito. Parecchie cose. Senti, Deborah, per chiudere il discorso su Way Out. Sì. C'è stato chi ha saputo ascoltare la tua anima? Ma spero di sì. Tu hai ringraziato un po' qui, hai ringraziato i musicisti che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, che sono qua, è un quartetto praticamente. Un quartetto, sì. Infatti sì. Si chiama Deborah Lombardo Quartet. Quartet, esatto. Quindi avevi una formazione sì, contrabbasso. Nella formazione c'era il contrabbasso, c'era Alex Carreri, con cui comunque collaboro ancora, spesso viene lui a suonare con noi. E poi Stefano Bertolotti, appunto il mio editore. Mm-hmm. E Fabio Franceschetti, chitarrista, arrangiatore. Sì. E poi vabbè, Mario Zara come special guest. E Gianni Satt. Sì. Ah, Gianni Satt, è vero, mi stavo dimenticando del mio grande amico Gianni. Scusa, Gianni. Che lavora con me, tra l'altro, al Milestone, insegna tromba lì. Benissimo. Quindi... No, con lui ho suonato anche in altre situazioni, con la BB Band di swing, quindi non potevo dimenticarlo. Ci mancherebbe. E quindi insomma abbiamo chiuso questa parentesi con mio così rientro nel jazz, ecco. Dal Brasile ai Police. Dal Brasile ai Police. Perché sì. I Police, perché? Deborah? Perché Sting o presunto tale? Perché un bel giorno sempre Mario disse, amante dei Police. No, no, non era amante dei Police. Disse, amante dei Police. Ti faccio sentire un arrangiamento. Ha confermato. Questo pezzo mi è piaciuto molto, anche perché alla fine io poi l'ho cantato quasi normale. È lui che ha stravolto tutto, è stato bellissimo, e questo pezzo ho detto è mio. Ma al di là di questo, Sting ha sempre avuto questa questa propensione allo swing. Ha fatto un album tempo fa, un doppio album di musicalità jazz e swing, assolutamente, sì, perché sì. I puristi si sono un po' agitati, qui chiamavano certo reggae rock, così chiamato. Ma lui ha sempre amato, secondo me, il jazz. Sì, poi ultimamente anche con Herbie Hancock, certo. Ha fatto un pezzo bellissimo, veramente. E quindi credo che, insomma, ci se potessi ascoltarlo, magari piacerebbe questo arrangiamento. Però è mio, l'arrangiamento sì, è mio. Tuo. Tanti tuo. Vogliono rubarmelo, ma è tuo, mio. È tuo. Allora, lei è rivisitato a modo tuo, insomma. No, ma io la parte vocale è abbastanza lineare, cioè abbastanza riconoscibile, non ho cambiato note, okay, ho solo dato un'interpretazione che si appoggia appunto a quello che è l'arrangiamento di Mario. Quindi lascio a lui dire come ha stravolto... Non mi ricordo più. Dai che ci ascoltiamo la canzone, poi magari Mario si ricorda. Allora, la canzone si chiama... Deborah? Every Breath You Take. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, you play, every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see, you belong to me, I'm a pure to chase, every step you take, you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Since you're gone, I'm lost without a trace. I dream at night, I can only see your face, look around, but it's you I can't replace. Feel so cold and I long for your embrace. I can cry, baby, baby, watching you. Sì, a microfono spento abbiamo detto prima che noi abbiamo sentito la prova di questo pezzo. Sting sarà assolutamente soddisfatto, decisamente soddisfatto bene, bene. Dell'interpretazione, perché è uno spirito libero questo pezzo, assolutamente sì. Libero. Cioè, le accelerazioni e le fermate le fai quando hai deciso di farle. Mario ti accompagna con sì. Una certa classe, con molta classe e via, assolutamente. C'è molta prudenza. C'è poco da fare. No, beh, poi un pezzo, poi anche il ritmo, la bossa nova, esattamente. È stata una bella idea, insomma. A proposito di idee, ho letto da qualche parte che tu hai collaborato anche per un documentario. Insieme. Per un documentario. Sì, non l'avevo letto che tu avevi collaborato col documentario. Sì, è vero, per la Rai. Per la Rai, Roadway for Africa. È stata un'esperienza carina. Che cosa vuol dire? È stata una piccola parte. E lui invece ha scritto la musica? Ha scritto alcune delle musiche insieme a Michele Mazzone. Esatto, e che aveva conoscenza con questo regista. Quindi questo viaggio hanno accompagnato delle musiche e loro hanno scritto delle musiche un po' africane. Che partiture erano africane, Mario? Ma era raccontava di questo trasferimento di camper per portare un ospedale in Africa. Se non sbaglio, e questa cosa qua toccava vari paesi. Quindi c'era un po' da raccontare le atmosfere determinate di un paese, la Spagna piuttosto che l'Africa o quindi da quello genere. Spunto là avete creato determinati momenti sonori. Sì, sì, qui è stato proprio, diciamo, c'era da fare la Spagna, ci siamo inventati una musica, una melodia originale che però ricordasse qualcosa di spagnoleggiante, con una chitarra acustica, certo. E con delle atmosfere. Bene, una cosa interessante. Sì, sì, molto interessante, che però vista appiccicata al documentario è stata una sensazione bella. Bene, sì. Ottimo. Ricordiamo che questa è sempre Blu Radio Veneto, l'emittente che state ascoltando in questo preciso istante, con Agostino Spolaore, con Maurizio Calzavara, ma soprattutto con Deborah Lombardo e Mario Zara, che sono venuti a trovarci da quel di Pavia. Non abbiamo ancora, se non la prima canzone, non abbiamo ancora toccato, entrati meglio dire nell'ultimo disco di Deborah, perché stiamo attraversando un po' con tre canzoni, insomma. No, puoi stare tranquillo. Sì, non abbiamo tempo. Tutto diretta, tutto okay, in diretta. Assolutamente. Puoi parlare modo. Tranquillamente. Il bello della diretta è anche questo. Dicevo, stiamo attraversando l'album precedente, cioè Through the Rain, guarda caso attraverso la pioggia. Sì. Come mai attraverso questa pioggia? La pioggia... È una cosa che ti piace. Al suo perché. Diciamo che devo tornare indietro quando ero bambina. Sì, perché io ho iniziato a scrivere poesie da quando avevo 13-14 anni. La pioggia è sempre stata molto ispiratrice, la malinconia, la tristezza. Ma tu sei una persona malinconica? In alcuni momenti nostalgica. Sì. Ma sai, si dice che molti artisti hanno scritto le cose migliori quando erano depressi, tristi. Nel triste è difficile far ridere, è difficile scrivere cose allegre. Mentre è molto più facile scrivere cose che toccano, tristi, melanconiche, e forse è un po' il mio stile, non so, no, la no, tristezza. No, ma... Però sì, la pioggia mi ha sempre ispirato, e poi la pioggia è anche un sentimento, no? Le lacrime che scendono da questa pioggia, quindi attraverso la pioggia potrebbe essere anche attraverso le lacrime. Mario si sta tagliando le pelle. Mario, ma è così difficile stare con Deborah? Domanda di riserva. Ma mi vuole tanto bene. Immagino, per sopportarti, dice. Ma si vede che c'è collaborazione tra di voi, insomma, comunque, quindi sì, c'è feeling, sì. C'è niente da fare, insomma, se no, e quello deve esserci, sì, per sì. Un duo, perché altrimenti non vai molto lontano. No, ci vuole tutto, ci vuole la stima, il rispetto, fiducia. L'amicizia, insomma. Capirsi, litigare anche, ma noi non litighiamo quasi mai. No, poco. Un litigio creativo, però. Litigio creativo. Sempre, certo. Creativo, sempre creativo. Ogni tanto mi fa piangere, però. È sempre creativo. Mi guarda male. Anche quello è creativo. Quello è costruttivo. Sì, costruttivo più creativo. Senti, la prossima canzone è una tua creazione. È la vostra. Diciamo che questa canzone era già esistente. E aveva un altro nome, si può dire? Boh. Ed era un brano strumentale che aveva scritto Mario. mi è piaciuta. Mario, comunque. Io l'ho rubata. Certo. Ci ha messo il testo. E ho messo il testo, sì, sì. Ho chiesto se potevo appunto inserirla nel CD perché mi piaceva molto la melodia, quindi ho messo un testo ed è nata una nuova canzone praticamente. Si chiamava prima Thin Sand, comunque questa parola l'ho mantenuta nel testo come finale, e adesso si chiama Nothing Else. La prima cosa che mi è venuta in mente quando ho visto il titolo, pensavo fosse quella del Nothing Else Mother, quella della Symphony, come si chiama? Che mi sfugge il nome adesso. Te lo dico dopo in privato, non guardarmi così. No. Dei Metallica. Ah, Metallica. Sì. Non chiedermi che ha come fatto, lo so. Ho capito. Mi è venuto un flash così. Poi invece... anche, sai che l'ho fatto anche Masini in italiano. Sì, lo so. Che è una cosa... No, ma insomma, l'ha fatto anche Masini, un classico da 20 milioni di copie, l'album nero dei Metallica, Black Album, quello, Se può fare. È meraviglioso. Noi invece ci ascoltiamo quella di Deborah Lombardo e Mario Zara, che si chiama Nothing Else. Silent, we lost. so strong, a waste of time. I cry, cry, standing alone, not start to da classico musicista jazz al finale della la scala, che chiaramente viene delle consonanti. E una cosa volevo chiederti, Mario, come sei riuscito, cosa hai cambiato, visto che questo era un pezzo strumentale, per consentire che Deborah mettesse il testo, quindi cantasse un pezzo strumentale? Che cosa, non hai cambiato nulla? No, assolutamente, perché lei l'ha ascoltato e si sentiva già quello doveva essere. Sì, così sì. Quindi. Anche perché non le avrei permesso di cantare. Ah, va bene. Sì, perché i pezzi scritti, quando sono scritti e si cambiano, si cambia solo in determinate occasioni. No, è una battuta. Comunque non abbiamo avuto bisogno di cambiare niente. Beh, no, ma poi la melodia era molto, molto semplice nel suo. Sì. Quindi le parole calzavano perfettamente. Poi c'erano i tempi, le pause giuste, per entrare, esatto, dentro con la con le parole. Sì, io ho solo messo il testo alle note della melodia. Anzi, spesso quando capita gli chiedo di suonarmi solo. Non l'armonia, ma solo la melodia, quando metto il testo, per facilitare. Cioè, proprio ho capito. In modo da essere fedele a quello che ha scritto. Mm-hmm. Come ti vengono i testi? Bella domanda. Non è facile scrivere in inglese, devo dire. Ma prima ti devi inventare una storia, comunque una canzone, un testo. Un'idea. Poi ovviamente io non sono madrelingua, quindi mi aiuto leggendo molto, anche poesie in inglese, soprattutto mi ispira molto la Dickinson, mi piace molto quello che scrive. Quindi, anche a Simon Garfunkel è ispirata molto, un famoso pezzo. Ci sono delle frasi che mi sono piaciute molto, proprio anche la terminologia poetica, quindi si può dire un po' l'ho rubato. Certo. Poi ovviamente ho chi mi aiuta nella correzione, ovviamente della forma, delle parole, se si possono usare o meno, perché bisogna essere proprio madrelingua per riuscire a scrivere come si scriverebbe in italiano. Però purtroppo il jazz in italiano non è che funziona tantissimo. Ma sono storie frutto della tua fantasia, queste canzoni? O diciamo che molto molto più intime. Qualcosa di tuo, insomma. Sì, del mio passato, di quello che ho provato, esperienze vissute, ma anche viste, diciamo, che non è che sono sempre autobiografiche, però l'ispirazione c'è. Tu hai poi tirato una battuta, il jazz proprio tirata non funziona molto bene in italiano. Non è della tradizione, quindi è molto difficile. Abbiamo avuto dei grandi jazzisti, sì, più che altro no. Swing in italiano, quello sì, abbiamo avuto Sergio Caputo, certo. Abbiamo avuto Fred Buscaglione. Fred Buscaglione, esatto, soprattutto. Quindi, anche Natalino Otto. Sì, esatto, per andare più indietro. Oggi è difficile, c'è qualche cosa, però... Perché secondo te? Perché non abbiamo la tradizione, perché non siamo americani? Ma allora, la lingua italiana secondo me si presta poco a fare quel tipo di ritmo, può risultare banale se non si è proprio bravissimi nello scrivere. Ci sono stati sono state delle canzoni, oggi, ultimamente, insomma, carine, funzionabili, però secondo me non funzionano proprio al 100%. Poi va a gusto, certo. Oggi abbiamo la Simona Molinari. Sì. Ci ha provato Amalia Gre. L'abbiamo conosciuta Simona Molinari. Però bella ragazza, la lingua italiana, anche nella vocalità, risulta sempre, poco adatta. scelta, almeno mio gusto, poi sì, ripeto, sì, certo. Gusto non si discute assolutamente, certo. Beh, è una cosa proprio personale, la qualità certo. Sì, ma il gusto no. Sì, sì, beh, ma la musica è soggettiva, comunque. Quindi infatti, cioè, io che canto in italiano, io in inglese, cambia totalmente certo. L'espressività, anche il colore della voce cambia, l'italiano paperinizza un po' tutte ma le voci. Qui c'è una diaspora in merito, nel senso che c'è chi ama veramente l'inglese e non si discute lì, c'è chi invece certo. Dice che l'italiano è bello da cantare, basta saperlo cantare. Beh, dipende anche cosa, perché in italiano noi abbiamo la tradizione del liricismo, quindi della canzone napoletana, della melodia, quindi la nostra Mina ha sempre cantato cose belle, impegnative, Mia Martini, cioè possiamo nominarle tutte, se ho nominato le più grandi. Quando però andava a cantare cose un pochino più frizzantine, un pochino più che ammiccavano lo swing, risultavano anche banali, un po' per i testi, perché comunque lo swing ha dei testi banalissimi, però in inglese sono bellissimi. E quindi secondo me la lingua italiana si presta veramente poco, cioè è molto breve il passo tra il bello e il banale. Cioè, ho capito. Bisogna essere proprio bravi, per esempio Sergio Caputo riusciva a avere dei testi ironici, però poi su un uomo magari funzionavano, cantati da una donna magari non facevano funziona. Lo stesso effetto. Quindi per quello che è molto difficile, li abbiamo avuti, però non è così facile, ecco, proporlo oggi. Chiudiamo il trittico, Deborah. Yes. Yes. Sì. E poi arriviamo a Fairy Tales. Hai scelto Midnight Sun. Sì, Midnight Sun è uno standard, un classico standard che noi facciamo spesso. L'autore dello standard, ti ricordi? No, non me lo ricordo ovviamente. Lionel Hampton e Sonny Burke. La mia memoria è l'età, ho compiuto. No, è l'età. A proposito, auguri. Mi stavo dimenticando, ho compiuto gli anni ieri. Auguri. Grazie. Pensa che mi fa ieri, ci siamo sentiti al telefono. Io lei mi fa, pensa se mi capitava domani in compleanno, lo festeggiavamo in radio. Sarei venuta lo stesso. Portavo la torta, la canzoncina te la cantavo qua. Ecco. Per cantare lo stesso. Mi sono già giocata la reputazione su Facebook. Sì. Poi ti vado a vedere. Va bene. Va bene. Allora, sì, Midnight Sun è un pezzo, appunto, uno standard che suoniamo spesso dal vivo, anche se la versione del disco è un arrangiamento particolare, che abbiamo proprio voluto farlo strano, ecco. Mario ovviamente. Mario, adesso mi parli un momento dell'arrangiamento di questo pezzo da disco che hai voluto fare, che hai voluto fare. Hai costruito, hai ideato, hai pensato. E questo però l'ho pensato qualche anno fa. E lui ha più anni di me. E quindi non mi ricordo. No, ti c'era il discorso dei mallet sulla batteria. Sì, che l'abbiamo provato due o tre tipi di arrangiamenti. Mm. Quello che suonava meglio era quello con la batteria suonata con i mallet. E mi è piaciuto l'esperimento che ha fatto il batterista, e da lì ha preso la piega, preso il pezzo. Ho capito. Sì. Dal vivo lo fate in quale maniera? Mantenendo la sonorità del disco, no, o cambiando totalmente? No, completamente è perfetto. Diverso. È bello che sia così. No, anche perché lo sentiremo, è un pezzo con una sonorità abbastanza più da disco, secondo me, no, Mario? Sì. Quindi dal vivo magari cerchiamo di dare dei ritmi un pochino più... più da palcoscenico. Sì, un pochino più accattivanti, certo. Anche, insomma, non è che sempre si può fare. No. Non rendono magari neanche certi pezzi fatti magari dal vivo piuttosto che in disco e viceversa, Chiaro. Che vengono meglio dal vivo, quindi... Okay. La cosa che più mi piace della pioggia è che scende è il suo suono. La musica racchiusa in quel ticchettio di gocce che si posano infonde un senso di pace, forse tristezza, ma cosa c'è di triste nel pianto del cielo? Se sulla terra ogni sua lacrima dona la vita, grazie ad ogni goccia di pioggia che ho versato per donare vita ad ogni nota racchiusa nel cuore. Deborah Lombardo. La dedica a Mario, non gliela dedica. like Andre the Ruby Chalet, warm on the summer night. The glower like an alabaster palace, rising to a snowy height. Its star is an aurora borealis. Suddenly you held me tight. I could see the midnight sun. I can't display the silver rain that found me over the moon leaving. The music of the universe around me, oh, that a nightingale. And then your eyes miraculously found me. Suddenly the sky turned pale. I could see the midnight sun. Oh, there's such a night. It's a thrill I still don't quite believe. But after you were gone, there was still some stardust on my sleeve. The flame of it may dwindle to an ember, and a star forget to shine. And we may see the meadow in December, I see white and crystalline. But oh, my darling, always I remember when your lips were close to mine, and I saw the midnight sun. It's a thrill I don't quite believe. But after you were gone, there was still some stardust on my sleeve. The flame of it may dwindle to an ember, and the stars forget to shine. and we may see the moon in December. Eyes wide and crystalline. But oh my darling, always I remember when your lips were close to mine. And I saw the midnight sun. Your lips were like a red and ruby chalice, warm on that summer night. The clouds were like an alabaster palace, rising to a snowy height. It started on aurora borealis. Suddenly you held me tight. I could see the midnight sun. Blue Radio Veneto, bella come non l'hai mai sentito. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Abbiamo chiuso il trittico dedicato a Through the Rain, questa attraverso la pioggia di Deborah Lombardo con la canzone Midnight Sun. Io voglio chiedere una cosa subito a Mario. Ai. La facciamo sulle 10:20, 10:25, Maurizio, giusto, giusto l'ora. La facciamo. Sì, la facciamo. Tre. Dai, anche a Debora dopo. Però. Beh, certo. Chiaramente. Però prima mi ha scritto così, Debora ha il tempo per pensarci. Allora, Mario, noi di solito facciamo sempre la solita domanda che ormai è conosciuta in tutte le emittenti del mondo, ma la facciamo anche noi, giusto per capire un po' anche i vostri gusti. Se vai in un'isola deserta, che dischi ti porti con te, Mario? Tre. Osteria. Non dirmi Debora Lombardo. Che dischi mi porti? A tuo piacimento, chiaramente. A mio piacimento. Sono pochi tre, però io so, penso che le tue scelte siano molto mirate. Quindi... Allora, porto un disco di mantra indiani che favoriscono la meditazione. E quello ci vuole. E quello ci vuole. Poi mi porto un disco mio per ricordarmi chi sono. No, non si porta roba propria. Non si porta roba propria, perfetto. Allora, porto un disco di Brad Meldau, uno qualsiasi di quelli The Art of Trio. Perfetto. E sicuramente un disco di Bill Evans. Ecco. Hai scelto Bill Evans? Non potevi non scegliere Bill Evans. Eh no, è imprescindibile. È imprescindibile. Quello deve per forza farci parte. Però il mantra indiano mi interessa. Sì. Interessante come scelta praticamente. Io pensavo che tu potessi scegliere qualcosa di musica etnica, perché quelle percussioni iniziali che hai immesso in quel pezzo sanno molto di africano, di etnico. Sì. Io avevo l'idea che qualcosa che ti piacesse, questo piccolo aggancio all'Africa, al di là del documentario che hai fatto, la musica che hai fatto tempo fa. C'è qualche aggancio nella tua musica che porta all'etnico oppure no? Qualcosina? No, non in qualche tuo arrangiamento, cioè, adesso soprattutto nei dischi che ho fatto con, l'ultimo disco che ho fatto con Deborah, più che etnico è creare un mondo. Ah, ho capito. Creare una sonorità comune di un mondo che ti porta a non pensare, che è la cosa migliore che si possa fare al mondo. Cioè, mi immagino un ascoltatore che viaggia in macchina e che ascolta questa musica guardando il paesaggio, assolutamente privo di pensieri, ma assorto dentro la musica. Ho capito. Questo è un po' quello vorresti. Quello che ho tentato di fare col suo disco è un po' la linea che sto prendendo nei lavori che sto facendo. Ho capito. Perché mi piace. Bene. My Foolish Heart. Eh sì, esattamente. Eh beh. Come fai a non conoscerlo? Eh beh, lui conosce tutto, non può non conoscere un musicista di un certo livello come Mario. Bill Evans è un, non so, io avrei citato anche Miles Davis, tu non l'hai citato, non so. Non rientra nelle mie corde. Non entra nelle tue corde, vabbè, perfetto. Okay. Noi rocchettari, sì. Per me la triade è Bill Evans, Jarrett, Mel Down. Ecco, noi rocchettari, Miles Davis ci stava. Anche Jarrett, benissimo. Io ricordo quel famoso disco come personaggio che ho preso io, che ne ho uno solo, famoso bianco, album bianco doppio, in Berlin. Te lo ricordi? Quello doppio che arriva, che ha superato per la prima volta nella storia del jazz il milione di copie. Ecco, il concert. Sì, il concert. Sì, no, sì, belli, sì. Il concert, quelli con i tedeschi, sempre in Germania erano praticamente. Sì, sì, e quello ha superato il milione di copie, e per noi rocchettari è un mito. Sì, sicuramente. Deborah, te invece? Non se ne possono portare quattro. Dunque, come primo sono molto indecisa, perché insomma, tra la Tosca e la Lucia di Lammermoor. Non la conosco, la Lucia di Lammermoor. È di Donizetti. Non la conosco. È uno dei ruoli che ho ti studiato, piace, che mi appartengono come vocalità. La Tosca, perché mi sarebbe piaciuto cantarla, ma mi hanno detto neanche in un'altra vita. No. È un lirico drammatico, quindi. Niente da fare. Niente da fare. Però la versione della Tosca con Maria Callas è unica al mondo. Io ho avuto anche l'onore di avere come insegnante di pianoforte po' di meno che il nipote di Tito Gobbi. Ah. Si chiama Alessandro Fortuna, un grandissimo pianista, insegnante di pianoforte. Tito Gobbi cantava con la Callas. Certo. E c'è una curiosità, se posso dirla. Ma certamente. C'è un video storico che io ho visto a casa sua, dove la Callas, mentre cantava nella scena appunto tra lei e Scarpia, gli si incendia la parrucca perché ha una candela vicina, e lui con un gesto scenico gliela spegne. E il labiale della Callas dice grazie. È bellissimo, fantastico. È questo, no? Sì. Sì. Quanto ti piace la tanto lirica. Tanto sì veramente la lirica mi appassiona, infatti ero indecisa fra appunto la Callas e la Gruberova, che è ancora vivente ovviamente, che era una grandissima cantante lirica, veramente paura, cinicismo e una voce potentissima. La Callas ovviamente è la voce magica, non si può non avere. Non si può non averla. Poi? E poi vabbè, Mamma Jazz, la grande Ella Fitzgerald, in un live stupendo che ho a casa, e quindi penso che insomma è che forse avremo in studio come dire la sua figlioccia, la figlia di Luis. Ah. Okay. Che si chiama Ella. L'ho ecco. Sentita anche tre giorni fa dopo venire a fare il concerto qui a Padova, probabilmente ve la trovate in studio. Bene. Abbiamo già telefonicamente abbiamo già intervistata, però verrà anche qui in studio probabilmente. Ella Armstrong. Sì. Fantastico. Che mai ti è aperto. Certo. E poi come terzo, insomma, sono, che dire, in questo momento sono in dubbio, è una cosa che ti potrebbe stupire, quindi per quello ti ho chiesto se potevo portarne quattro. Vabbè, dai, facciamo uno strappo. Tanto lui si portava un suo disco. Diane Reeves, ovviamente, la grande Diane Reeves nel jazz, secondo me è una delle cantanti che musicalmente forse è la più stimata tra i musicisti, anche perché le cantanti sono un po' trattate un po' c'è un po' di discriminazione razziale le cantanti jazz, donne soprattutto. E poi in questo momento vi stupirò, ma mi piace Adele. Ma perché ci devi stupire? Chi ti piace? Adele. Disco l'ultimo che ha fatto, 21, devo dire che è stato tre mesi nel mio CD della macchina, quindi ho stupito. È stato 150 giorni negli altri CD di tutto il mondo. Sì. No, come copia. Non so come mai, ma mi ha colpito molto, non tanto. E come mai ti ha colpito Adele? Non ho idea. Mi ha colpito proprio l'espressività, forse, ma più che la qualità vocale. Poi sì, e anche come autrice. Infatti sì, mi ha stupito proprio la freschezza di questi pezzi. Io non riesco a ascoltare un pezzo per intero, invece lei riesco a ascoltarla e mi piace molto, devo dire. Veramente ha fatto un grande botto con 21, ma non solo dal punto di vista di vendite enormi, anche dal punto di vista di qualità, è quello che conta, più che le vendite. Sì. Bravissima, indubbiamente bravissima. Found a girl in your married. Bello quando riprende anche i pezzi di Dylan fatta da lei. molto bene, e non i Dylan solito, certi pezzi non propriamente famosi di Dylan. È molto brava. Diciamo. Anche Skyfall mi è piaciuta molto. Anche Skyfall. Sì, pensati che l'ha cantata una volta sola, così sì. Dicono. È come Mina. Buona la prima. Beh, sì. È come Mina. Pare anche cantava che abbia avuto dei problemi gravi alla voce comunque. Sì. Un quarto d'ora l'ha fatta, diceva. Proprio sì, beh, ma a proposito di Mina, Mina era alla Gondola d'Oro di Venezia molti anni fa. Purtroppo l'ho esclusa dal mio... alla Gondola d'Oro di Venezia dicono una leggenda. Anche non so se sia. La sto veramente... Sì, stai costruendo un progetto su Mina. C'è già un progetto. Mina è Mia Martini, vero? Esatto. Sì. E dicevano alla Gondola d'Oro di Venezia alcuni anni fa, molti anni fa, tutti gli altri provavano un sacco di volte. Lei è salita sul palco, aveva il pezzo davanti, tac, vero, sì. E basta. Così è, sì. E così è ancora ce adesso. Ce n'è di aneddoti di questo tu lo sai benissimo che stai facendo questo progetto. Lo impersono, cioè la impersono. Un altro aneddotino, dai. No, aspetta, vi rubo 30 secondi e poi siamo ancora con voi. Blue Time Live. Live. Siamo ancora qui, nel senso che non c'è Renato Ferro questa sera. È in vacanza, beato lui. Ritornerà fra due settimane. Beato lui. Con la sua musica heavy metal, quindi per gli amanti dell'heavy metal questa sera è rimandata la musica. Perché... Lei ha citato i Metallica, quindi anche gli amanti dell'heavy metal. Certo. Ci possono stare. Ma abbiamo la musica raffinata, la musica di classe, come dicevo io prima all'inizio, di Deborah Lombardo assieme al suo... Patotto, il suo autista, il suo tutto. Tutto fare. Mario Zara. Allora, cos'è che dicevi? Sì, doveva citare un aneddoto. È una cosa importante perché Deborah sta costruendo un progetto assieme a una sua amica. Sì, esatto, con Roberta Marcone, che conoscerai perché hai il disco di Roberta. Sì. Tra parentesi, Mario ha fatto gli arrangiamenti anche del disco di Roberta e io l'ho aiutata con i testi. Devo ancora chiamarla, mi scuserà perché sì. Talmente tante. E la saluto se mi ascolta. Spero. Sì, ciao Roberta, perdonami, hai ragione. E con Roberta appunto anche abbiamo... perché apro una piccola parentesi su Roberto, un aneddoto, gli ha scritto una lettera molto bella quando mi ha mandato il disco e mi ha colpito, quindi ci terrei ad averla, insomma. Poi no, ho scoperto dopo che eravate amiche, insomma. Sì, siamo molto amiche, quasi amicissime. Ciao Roberta. E niente, abbiamo già costruito, perché l'abbiamo già anche fatto la prima apparizione in pubblico di questo progetto di biografie su Mina e Mia Martini. Quindi noi, sedute al tavolino di un bar, raccontiamo la nostra vita. Io sono Mina, lei è Mia Martini. Che bello. E la raccontiamo con aneddoti, battute scherzose. Ovviamente abbiamo estrapolato delle due biografie le cose più interessanti o quelle che ritenevamo fossero comunque non le più importanti, perché tutto è importante, però più accessibile al pubblico. Sì, perché c'è talmente tante cose in due ore bisogna stringere. E un aneddoto carino è quando io racconto appunto di questi autori sconosciuti, che insomma era bello cantare anche le canzoni di autori sconosciuti, portarle a successo, come grande Tony Renis. Certo. E chi era Tony Renis? E lei risponde: ah, la canzone l'ha rubata Orietta. Come l'ho rubata Orietta? Eh sì, la doveva cantare lei. Vabbè, lei non ci ha creduto, non l'ha voluta. Io l'ho presa, cosa ho fatto? L'ho cantata. Cosa c'era da fare? Benissimo. Va bene, allora adesso apriamo questa pagina, lunga pagina dedicata a Fairy Tales, con questa Granny. Sì. Granny. Granny è una canzone... particolare, perché il testo nasce da un ricordo di quando ero bambina, di una persona a cui ho voluto molto bene. Sono state due, ovviamente, le persone molto importanti nella mia vita: mia nonna e mia madre. Mia nonna se n'è andata via per prima. E questa melodia è venuta così per caso, e ricordando appunto quando ero bambina, quando, avendo paura del buio, mi portava a dormire con sé. E mi riportava nel mio lettino quando mi ero già addormentata, perché non volevo dormire da sola. E quello che ricordo era il suo profumo, era le tante cose che a quell'età non ero capace di dirle, e poi si è ammalata troppo presto, che io non avevo ancora quella consapevolezza. E quindi quel ti voglio bene detto col cuore, con la consapevolezza, non sono mai riuscita a dirglielo, quindi con questa canzone spero di aver ripagato un po' la mia defezione. Ma Granny perché? Granny vuol dire nonna. Nonna. Vuol dire nonna in inglese. E la frase finale, appunto, ho bisogno di te, sto aspettando il tuo bacio della buonanotte. Ascoltiamo. Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. There's a sweet place when I was young, in your arms for nightly prayer. I'm still afraid. Kiss me good night. Questo è un pezzo molto interessante. Io ho scritto nella recensione, noi della redazione, c'è un grande contrabbasso qua, secondo me, dà proprio il nervo al pezzo. Chiaramente qui stasera Mario ha dato il meglio di se stesso con questa scala, queste scale continue. Però il contrabbasso ha fatto un grande lavoro in questo Riccardo pezzo, Fioravanti, secondo grande me. Riccardo Fioravanti, sì, sono molto contenta che... Ma che abbia accettato il nostro invito a registrare con noi nel disco, perché è un grandissimo professionista, mega impegnato. Però citiamo anche Antonio Fusco alla batteria. Ovviamente il grandissimo Antonio Fusco. Non può mai, il mio Antonio, io lo adoro, batterista che adoro veramente. Però appunto Riccardo ci ha fatto un grande regalo. Dà proprio un'impostazione molto forte in questo pezzo. Sì. Poi devo dire che lui non aveva mai visto i pezzi, è venuto in studio, li ha letti, bello, buona la prima. Ha capito subito quello che voleva. E poi Mario ha dato anche questa impostazione molto bossanovista, molto brasiliana, secondo me. Leggermente brasiliana. Anche qua, l'introduzione, poi ti sei liberato e via, e sei andato. Secondo me io l'ho sentita in questa maniera. Sì, indubbiamente. C'era bisogno di dare un po' di carica. Di carica, pezzo, esattamente. Sì. Perché anche perché sono tutto troppo atmosfera. E quindi a questo punto ho visto che sul testo, sul pezzo, cioè il pezzo si prestava anche. Non questa solo apertura. Esatto, questa apertura. Che poi alla fine è anche un po' la caratteristica del pezzo, no? Sì. Quindi abbiamo provato, ci stava bene. Ciao. Bene. Ciao. E poi si è incastrato, devo dire, benissimo. Sarà il destino, Mario. È il destino che ci segue. È solo il destino che comanda. No, nel senso che nell'improvvisazione ci sono due citazioni di due brani appunto brasiliani, due bossa nove. No, lì non era il destino, sono io che ti ho detto di farlo. Sì, però no, adesso sto spiegando. No, è vero. Diamo a Cesare. No, è vero, ma ci stavo arrivando. Però il destino che volevo dire io è che, essendo dedicato a mia nonna, mio nonno era un chitarrista, era un macchiettista toscano, a dire il vero, ma lui adorava il jazz e suonava spesso i brani di questo tipo per mia madre, quindi si è incastrato proprio tutto bene. Dedicando a mia nonna ho inserito queste citazioni, appunto, che Mario metto, fai quelle citazioni che sono belle. È fatto bene. Senti, adesso c'è un duo di canzoni, un bis di canzoni che sono una più bella dell'altra. Sì. La prima, vabbè, l'originale non si discute. No, però la versione di Michael Jackson è qualcosa di favoloso. Non la conosco. Io vattela a sentire. No. Vattela a sentire, perché guarda, è da brividi. Io quando l'ho scoperta mi sono anche venute le lacrime qualche volta, perché è talmente intensa, talmente bella. Poi lui, sai, con la voce che aveva, insomma. Comunque, se hai l'occasione, vattela a sentire. Che è appunto quella di Charlie Chaplin, Maurizio. Smile. Ecco, la prima versione, cari ascoltatori, è del 1954, è dell'immaginifico Nat King Cole. È stato perché Smile era, dimmi, almeno io ho letto che questo, non sei d'accordo. Scritta nel 1936. Sì, però la prima versione cantata di Nat King Cole. Ah, cantata. Quello è un pezzo strumentale. Esatto, inizialmente era un brano strumentale. 36 da tempi moderni, un pezzo strumentale. Ma Nat King Cole l'ha portata alla apoteosi completa. Vero. E adesso lui giustamente ha citato Michael Jackson. Sì. Ci sei? Sì, no, volevo fargli sentire un po'. Ah, la versione di Michael Jackson. Sì, ma giusto. Tu non la conoscevi, la versione di Michael Jackson? No, di Michael Jackson no. Ti faccio sentire solo un pizzettino. Ascoltatela con le cuffie, perché guarda, Deborah, è una cosa fantastica. Sembra la figlia di Nat King Cole. Perché il vicino di Michael Jackson. lo sai dove è tratto questo pezzo di Michael Jackson? Da che album? Dalla History. Bravo, del 95. Doppio, ce l'ho. Ce l'ha. Beh, allora, questa Smile, perché l'hai voluta inserire nella scaletta o l'ha voluta inserire Mario? L'hai voluto inserire te? Beh, Mario mi ha fatto un bellissimo arrangiamento. Questo pezzo era un brano che appunto mio nonno suonava a mia madre quando era bambina. Beh, io mio nonno non l'ho conosciuto, ovviamente non ero ancora nata. E quindi quando è nato il progetto di questo disco, che è nato un po' di anni fa, poi abbiamo tardato un po', doveva essere una sorpresa per mia madre, che purtroppo però era malata e non siamo riusciti a fargliela la sorpresa. Quindi diciamo che ogni volta che devo cantare questo pezzo mi devo concentrare tanto perché ti emoziono. Sì, mi emoziono ancora oggi, dedicato appunto a lei che non ha potuto ascoltarlo. Ma lo ascolta senz'altro dal cielo, non ti preoccupare. Sicuramente. Sì, certo. Poi sì. Comunque Mario ha fatto un arrangiamento veramente fine, raffinato. Giusto Mario? Poi mi paghi, eh? Perfetto. Mi offri la cena dopo. E poi, giusto perché voglio farlo quasi subito, insomma, la canzone dopo, il bis, cioè questo ragazzo di Ipanema, insomma, le ragazze di Ipanema. Sì, il ragazzo di Ipanema. Che c'è praticamente Deborah me l'ha spiegato perché c'è Diana Krall che anche lei l'ha intitolato The Boy. Il ragazzo di Ipanema, sì, beh, cantato da una donna sembrava brutto dire sì. Allora The Boy, senza la S, sì, beh, poi c'è tutta la leggenda su come è nata questa canzone, mm-hmm. Però magari è un po' troppo lunga da raccontare. Ce li fate tutte e due, prima una poi l'altra, certo. Tutte, sì sì sì, vicini. una dietro l'altra così l'ascoltiamo, perché veramente sono due canzoni stupende. Allora, si comincia con Smile e poi con The Boy from Ipanema da Deborah Lombardo e Mario Zara. Blue Radio Veneto. Thank you. dye your face with gladness. Ah, every trace of sadness, although a tear may be ever so. You'll find that life is still worthwhile if you just. Thank you. spooky when it passes. I smile, but it doesn't see. No, it doesn't say. Due grandissime versioni, affascinanti versioni, e nel disco Smile aveva le magiche spazzole, sì, di Antonio Fusco, sì, vero, aveva queste vero, magiche vero. Spazzole. La versione che mi avete dato stasera è bellissima, come bellissima è la versione della ragazza di Ipanema. Ricordiamo che era una musa vera e propria, una ragazza in sì, carne esatto, ed ossa, si chiamava Eloisa Eneda Menenez Paz Ruy Pinto. Questa era il suo Halo, la chiamava. Ah, Halo, si chiamava Halo, e frequentava il bar dove Vinicio De Moraes e Jobim frequentavano. Sì, la vedevano passare e tutti la vedevano i giorni. Passare, esattamente. Esatto, andava a volte, comprava le sigarette per la madre, tornando da scuola. E quindi ha ispirato questa, sì, questo hit e in poi mondiale. E poi non hanno voluto, questo no. Lo sai, non, sì. Non hanno voluto i genitori del futuro marito... diciamo rendere pubblica la sua immagine. Esattamente. Quindi, per anni e anni è rimasta segreta questa ragazza di Ipanema, se non che pare che in tempi recenti qualcuno, lei stessa forse, sì, avrebbe voluto riscattare la sua immagine. C'è stato anche una controversia, certo, che poi lei ha vinto, sì, ha vinto lei, quindi una bella favola. Una bella favola. Una delle tue. Insomma. Una delle mie favole. Esattamente. Musicalmente nell'arrangiamento che ha fatto Mario nel disco, secondo me, io parlo secondo me, dopo vediamo Mario se è d'accordo, da una canzone popolare si è trasformato in chiave, un classico jazz, secondo me. È diventato quasi uno standard jazz. Quasi uno standard jazz. Quasi. Tendente al pop. Tendente al pop, sì. La popolarità, la chiave popolare l'hai leggermente abbandonata per consentire a Deborah di fare le sue evoluzioni al pop. Sì, possiamo sì, dire sì, questo. Possiamo dirlo. Ecco, accettato. Bene, allora sempre Blu Radio Veneto, sempre Agostino Splore, sempre Maurizio Calzavara, ma soprattutto sempre Deborah Lombardo e Mario Zara, sempre qui. Noi andiamo avanti a quella, abbiamo in scaletta, abbiamo ancora 4 canzoni, quindi magari stringiamo un pochino i tempi di parlata e così ascoltiamo più canzoni tue, sì, cosa dici? Certo. Senti, Masto, Lorenzo Bobo proprio non ha voluto farti il caffè, insomma. No, nessuno mi ha fatto un caffè. Nessuno ti ha fatto un caffè. Vabbè. Ma mi sono comprata una caffettiera nuovissima. Sì, perché io le distruggo, pare che le caffettiere elettriche le distruggo. Senti, quali sono i tuoi progetti futuri? Io ho sempre tante idee nella testa, quindi a volte mi devo fermare. Mm-hmm. Adesso abbiamo appena finito un campus in cui collaboriamo da 5 anni io e Mario, un campus musicale dove vengono ragazzi da tutta Italia per 15 giorni e insegniamo, facciamo musica insieme, quindi a Castellabate, si chiama Vacanza in Musica. Di jazz, musica jazz? No, vario genere, tutti i generi. Non... Puoi andare anche tu Maurizio. A Castellabate, San Marco di Castellabate, in provincia di Salerno, il famoso Castellabate del film Benvenuti al Sud. Ah, ecco. Ah, posto bello fantastico. Quello. Siamo ospiti di una fondazione meravigliosa, la Fondazione Passarelli, voglio anche salutare tutte le certo, ragazze che lavorano, perché è simpaticissimo. E questa Vacanza in Musica è un progetto bellissimo, devo dire, perché dà esperienza di vita, di musica, di amicizia, e il posto, la cornice è fantastica. E quindi stiamo già pensando all'edizione 2014, abbiamo già, se ci portiamo avanti, insomma. Ah beh, giusto. Poi nascono delle belle amicizie, ci vengono sì, a trovare, andiamo vero, a trovare. Poi ovviamente le scuole che adesso stanno per riaprire, quindi... Anche tu ricominci? Sì, dal 15 settembre riaprono i corsi delle scuole, io insegno in 3 scuole, quindi comunque già sono preparata a fare gli orari, quindi sarà una lotta come tutti gli anni incastrare gli orari. Poi altri progetti imminenti. Non ti è mai venuta voglia di fare un disco diverso da, dal tuo, diciamo, amore per il jazz? Cioè, che ne so, un disco cantautorale, faccio un esempio, un disco pop, un disco rock, quello Oddio. Che vuoi tu. Non ti è mai malenata per no, la dire non la ti verità, senti dentro queste musiche? No, mi piacerebbe, è il mio grande sogno, un progetto con una big band, di quelle proprio alla D'Anschur, proprio alla Count Basie, ecco, quello mi piacerebbe tanto. Ho avuto una piccola esperienza quando studiavo appunto a scuola con la big band della scuola di Pavia. C'è a Padova, se vuoi, una, sai? Sì, dove dirigeva Emilio Soana, tra l'altro il grande trombettista Emilio Soana. E ho avuto questa esperienza bellissima, io mi tremavano anche le unghie dei piedi, devo dire, quando sono salita sul palco. Però è stato bello e questo mi piacerebbe tanto, ecco, rifarlo. Però insomma, costi molto elevati registrare con una big band. Quindi a Padova c'è anche qui una. E poi trovare una big band, insomma. Con il direttore La Monica, se non sbaglio. Chi? Qui, questo qui a Padova, la big band no, di Padova. Non lo conosco. Molto buona. È bella, è brava, insomma, cioè, è molto brava come big band. Va bene, e adesso c'è Nature Boy. È una favola anche questa, quindi proprio il testo inizia con c'era un ragazzo, c'era una volta, quindi mi è piaciuto proprio l'idea del racconto di questo ragazzo strano, questo sognatore che veniva da lontano. Quindi ti facciamo riposare un po' per l'ascoltiamo dal disco. Certo. Arrangiamenti particolari? Beh, sempre di Mario Zara ovviamente, lui che mi può spiegare per gli arrangiamenti. Sì, ma ne parliamo dopo, ascoltiamo il pezzo. Thank you. Mario, parlavo prima, Mario, tu hai voluto l'arrangiamento così? No, è stato Antonio Fusco che ha voluto l'arrangiamento così, questo inizio del percorso. Bello, interessante. Vi vedo molto chiacchieroni mentre va... Sì, perché io devo sentire o capire tutto quanto come è stato fatto le cose, perché la gente che ascolta, secondo me, entra meglio nel modo di fare un pezzo, che non è mica semplice, è una cosa complicata. Il musicista è una persona che... Non è un lavoro semplice fare il musicista, secondo me. È un lavoro molto complicato, molto complesso. Sì. Sembra, non è così. E quindi già sapere le cose, secondo me, sempre secondo me. Quindi Antonio Fusco è un grande, è stato grande perché ti ha portato in una certa maniera, l'arrangiamento in una certa maniera. Consentimi, Deborah, di salutare una persona che non so se tu la conosca. Penso di sì, perché insomma nel mondo vostro, no? Insomma della musica, poi siete anche molti amici. Si chiama Consuelo Singer, la conosci? No, vabbè, è una pianista che canta, fa anche lei in seminari, fa anche lei campus, fa anche lei insegna ed è anche lei molto raffinata, molto fine. Ci verrà a trovare a novembre. Mi ha messo un mi piace sulla tua recensione adesso, quindi magari ci sta ascoltando. Quindi ciao Consuelo, se ci stai ascoltando dai confini con la Svizzera, ti mandiamo un carissimo saluto. Ascolterò con piacere. Se ti interessa, magari. Sì, sì, beh, mi piace sempre. Consuelo Orsinger. Va bene, allora adesso abbiamo un altro bis, cioè un duo, meglio dire, un duetto, chiamiamolo come volete, insomma, due canzoni di seguito, Too Many Words, Run Around. Cosa ci dici su queste canzoni? Allora, Too Many Words era una melodia che avevo in testa, ripetitiva, non aveva un inizio e una fine ben precisa sta canzone, insomma, era una melodia di poche battute e doveva nascere senza parole, infatti il titolo doveva essere Senza Parole. Poi abbiamo cominciato a lavorarci e non riuscivamo a trovare una quadratura, l'abbiamo lasciata lì, poi l'abbiamo ripresa, però l'idea era carina, cioè era bella la melodia. E io avevo in mente un qualche cosa di tormentoso. Poi mi fa, vabbè, provo a mettere delle parole. Ho messo le parole, è nato un poema e quindi ho cambiato il titolo da Senza Parole a Troppe Parole. Definitiva. E poi invece Run Around è il vero tormentone del disco. Io lo chiamo così perché, vabbè, il testo ovviamente Run Around vuol dire girare intorno. Quindi questo girare intorno, questo... girare, scavare intorno a quello che è la vita, a quello che sono i percorsi, le esperienze, belle o brutte che siano comunque. E infatti è un brano che ha una struttura molto semplice, cioè ha un tema che si ripete due volte e finisce, non ci sono soli, non c'è nulla di niente. La particolarità ovviamente che, vabbè, piano e voce non potremo far sentire, è proprio la libertà degli strumenti che entrano nella secondo tema, che suonano come noi diciamo sempre, quello che volete. Ah. A vostro piacere. Mario, spiegalo tu che sei più... No, beh, è un modo di suonare libero, però stando sempre nel time. Ho capito, cioè nei tempi giusti. Cioè nelle battute giuste, però suonare che sembra... Sembra a caso, ma non è a caso. Ho capito. Ha un suo perché. Infatti, cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Ci chiedono. Quello che volete. Va bene, allora. Too Many Words e Run Around. really simple draw a bit. The eye can lead the balance behind me. The ending of my prayer it would be the secrets of your destiny with me. Play my game. You make me crazy one more time again. In every night and every scene. So far away. No mystery next time. I want one way. If I should fail, who cares? I'll live again. What would I give to see your face again? Bye, bye, bye. Sad about the day I ever die. Bye, bye. Sad about the day I ever die. Bye, bye. Canzone successiva. Round again. around, around again. Life is over there, around, around again. I cannot explain. Bellissime. La prima versione, Two Money Words, secondo me poteva essere anche un singolo potenziale, una canzone molto accattivante, molto, che prendeva immediatamente, a mio parere. Sempre a mio sì, parere. Sì, infatti devo dire che nel disco quella che ha colpito forse a primo ascolto è stata proprio questa qui, Too Many Words. Sì, e la seconda, cioè il secondo pezzo che hai fatto era più d'atmosfera e sì, poi una nota che lunghissima, che tenevi lunghissima, sì, volutamente, sì. Volutamente giocavi col mix in questo qua, giocavi con il reverbero, perché appunto nel disco mi era piaciuta l'idea di questa nota che si perdeva nell'eco, e quindi era bello riuscire a riprodurlo anche dal vivo. E poi ci vuole tanto fiato, e poi l'ha cantata alla fine anche. No, la canto alla fine proprio perché la voce è più calda. Io sono un diesel, come dico sempre. Beh, certo, insomma. Va bene, Deborah, siamo arrivati alla fine, però sì, prima di salutarci ovviamente ci devi dare i tuoi dati, se qualcuno ci vuole, nel senso che se qualcuno ti volesse contattare. Mi trova su Facebook, c'è il mio sito, anche se devo dire che non lo aggiorno molto, riesco a avere poco tempo, però www.deboralombardo.it è il mio sito. Poi mi trovate sul sito della Ultrasound Record, che è appunto il mio editore, dove possono trovare tutti i miei dischi e anche il mio libro, non abbiamo detto? Certo. Infatti ho visto che sì, è un libro di sì, tecnica vocale. Un libro, sì, di tecnica vocale, non ho la presunzione di insegnare niente su un libro, anzi i libri non insegnano, però è una raccolta di esperienze che io ho fatto nei miei seminari, sono alla sesta edizione di questo La Voce Parlata e Cantata, e ho messo insieme tutti gli argomenti, li ho ampliati ed è nato un libro che appunto mi è utile a livello didattico, è scritto in modo semplice, proprio con le parole che uso a lezione, quindi è un aiuto anche per capire come approcciarsi allo studio del canto. Ma toglimi una curiosità. Sì. Si può approcciare qualsiasi persona sì, a cantare? Sì. Sì, sì. Io sono stonatissimo, vengo trovati. Non posso? Esistono gli stonati, devo dirlo. Diciamo che insomma ognuno parte dal proprio gradino, uh-huh, non bisogna mai dire mai, uh-huh, io do sempre... speranza, cioè io lavoro, poi è ovvio che non ti posso dire fra tre mesi io ti insegno a cantare quello, piuttosto che si fa un percorso, dove si arriva, sappiamo dove partiamo, ognuno è consapevole dei propri problemi, delle proprie difficoltà fisiche, fisiologiche, psicologiche, e si parte da lì e poi si fa un percorso. No, siccome io e Maurizio volevamo fare un disco sì, insieme. assolutamente sì. Due stonati come campane. Ma io sì, lo so te, no, ma io veramente sei una cosa assurda. Noi siamo rocchettari. Sì, tu. Va bene, i prossimi concerti invece tuoi, Deborah? Guarda, al momento non ho grandi progetti appunto di concerti, perché Pavia è morta in questo periodo. Me lo dicevi prima, infatti. Cioè, ci sarà una notte bianca, ma purtroppo lui non c'è. Uh-huh. E io non lo so, quindi cosa farò quel giorno. Sarò già impegnata a fare gli orari di scuola. Diciamo che a fine settembre sì, c'è il progetto con Roberta, che faremo alla Biblioteca Bonetta di Pavia. Gli arrangiamenti sono tutti suoi, il progetto con Roberto? No, purtroppo no. Lui ci costa troppo. Ah, ho capito. No, il progetto con i musicisti sarebbe bellissimo, ma è molto costoso da portare in scena, quindi abbiamo scelto per appunto la parte teatrale, quindi recitata, e poi con le basi. Con le basi. Sì, e poi abbiamo i video dietro di noi, quindi per il momento... Così. È così, poi chissà, vedremo. Non è detto. Magari qualcuno stasera ti ha ascoltato e magari ti chiederà di suonare, di cantare. È un progetto molto carino, è piaciuto, quindi secondo me non è il solito cantare i pezzi di Mina o Mia Martini, ma è proprio raccontarli impersonando la figura. Quindi ci, due notizie sul prossimo disco? Prossimo disco? Aiuto! Dai, ci svegli qualche segreto, so che c'è qualcosa sotto. No, non abbiamo ancora parlato del prossimo disco. Di solito c'è sempre qualche canzone messa lì, pronta per essere... qualche canzone messa lì. Ti cresce il naso. Una dei Pink Floyd, ma non lo sai ancora. Ah, vabbè. Non lo so ancora. Va bene, innanzitutto io parto da Mario Zara, insomma, volevo veramente ringraziarti di cuore per aver fatto l'autista, per aver suonato e per essere venuto qui a trovarci questa sera, insomma. Grazie a voi e grazie a tutti. In bocca al lupo per la tua carriera e per la tua musica. Crepi il lupo. Ci vedremo al prossimo disco di Deborah. Sicuramente. Se sì, volete sì. Venire, sempre se sì, certamente. Ecco. Deborah, grazie a te che hai accettato l'invito. Grazie a voi. Scusa che il ritardo. Avete no, ci mancherebbe. Ci conosciamo da quando? Due anni? Un anno e mezzo, due? Eh beh, è un bel po'. Un pochino sì, un pochino sì. Ma veramente, guarda, mi scuso, ma insomma, vedi che è una cosa... Meglio tardi che mai. Certo che no. Allora, mi scuso con quelli che stanno aspettando, perché siete tantissimi, insomma, quindi va bene, riparleremo un po' con tutti. Io vi do l'appuntamento, non giovedì prossimo, perché sarò in una manifestazione molto bella, la tengo anche a sottolineare, cioè il premio Bruno Lauzi che si svolge ad Anacapri. Mi hanno quest'anno di nuovo invitato, ci andò con tanta tristezza perché sapete, ve l'ho già detto, insomma, è morto il direttore artistico Roberto Giannani, il quale mando ancora una volta un caro saluto, e saluto la moglie, saluto la figlia che vedrò veramente volentieri. Però insomma, parliamo del premio, il premio è un premio dedicato agli emergenti. Sono sette finalisti e faranno appunto la finale, quelli con c'è San Giorgi, ci sono altri personaggi, c'è Edoardo Vianello, c'è Marina Nava, c'è insomma altri big della musica, e quindi andrò giù veramente molto volentieri pur avendo la tristezza nel cuore. E poi ancora noi ci risentiamo invece giovedì prossimo, fra 15 giorni, con il 5 di settembre, sì. Con Liana Marino, che è una cantautrice. Può darsi che qualcosa bolla, cioè, qualcosa bolle, qualcosa bolle, non si sa. Lunedì può darsi, non si sa. In ogni caso, sicuramente fra 15 giorni con te. Fra 15 giorni, sì. Quindi poi riprenderà, fai bravo dopo tu, le ferie riprenderanno. Fai bravo, sai? Sì, farò sempre il bravo. Riprenderà Flavio martedì, mercoledì ci sarò io, giovedì non ci sarà nessuno, e venerdì riprenderà Alberto Prisco martedì, e venerdì riprenderà Marco Borgatto. Adesso torniamo effettivi. Sì, effettivi tutti quanti. Tutti quanti. Agosto è finito, la musica non finisce mai. The show must go. Esattamente. E infatti adesso ci salutano con una canzone che è quella che dà il titolo all'album. Esatto. Ce la siamo riservati per la fine, certo. La ciliegina. È un pezzo molto bello, molto intimista, e un'ottima conclusione del disco. Sì, me. Una bella ninna nanna. Una bella ninna. Ci vuole. Deborah, ti mando un abbraccione grande, grande. Grazie a te. Lo sai, con tanto affetto. Lo sai che ti voglio bene. Grazie. E ti auguro di, insomma, una grossissima carriera. Mi aspetto di rivederti qui, insomma. Speriamo, comunque ci teniamo in contatto, certo. Su Facebook e non solo. Va bene, allora ci salutiamo con la title track, come si suol dire, Fire Tales, e buon proseguimento all'ascolto dei programmi di Blu Radio Veneto, che continuano comunque con le sue canzoni. Prego. Somewhere in my soul, I need my love again. You can trust me, you night. is almost done. Nothing left to say. Every fairy tale that I lead to the end close to you. I'll waste my time. That's it.